oggi un giorno scuro, senza luce, è lo strappo del mio cuore, non si ricuce. Tempo ne è passato, da quando mi hai bagliato, in un solo istante mi hai bruciato, con un calore intenso di quello mai provato, ogni resistenza ha annientato tutto ciò che è stato. Tempo passato è solo un ricordo, ormai appannato, non sei reale, ti ho solo sognato, ma eri più bel sogno mai creato. Un amore sognato, di quelli sempre veri che disturbano i pensieri di oggi e di ieri. Ripenso al tuo sorriso dolce e improvviso, che sconvolgi i sensi senza preavviso. Non so se è stato un caso, non so quanto è voluto, ma in un istante da te sono caduto. Non so cos'è accaduto, non so cos'è avvenuto, ma ciò che è nato è amore assoluto. Ho scommesso su di noi, su una vita insieme, non solo fatta di passioni estreme. Lo scherzo fra di noi, una costante, sicuramente confortante. Sentirti ridere alla battuta volgare, fatta soltanto per poterti sfigare. Tu pronta a ripagare, senza divagare, e nel mio abbraccio sentirti affogare. Ancora una notte per restarmi accanto e rendere infinito questo incanto. Un amore sognato, di quelli sempre veri che disturbano i pensieri di oggi e di ieri. Ripenso al tuo sorriso dolce e improvviso, che sconvolgi i sensi senza preavviso. Non so se è stato un caso, non so quanto è voluto, ma in un istante da te sono caduto. Non so cos'è accaduto, non so cos'è avvenuto, ma ciò che è nato è amore assoluto. Come ogni cosa bella non dura in eterno, e anche su di noi cala l'inverno. Freddo, gelido, che tutto ha distrutto i nostri sentimenti. Prima di tutto ci siamo fatti male, abbiamo rischiato, prima o poi ci avrebbero beccato. Il nostro stare insieme in quel modo strano, dove la passione la fa da sovrano, resterà per sempre chiuso in un cassetto, come le parole che non ti ho mai detto. Un amore sognato, di quelli sempre veri che disturbano i pensieri di oggi e di ieri. Ripenso al tuo sorriso dolce e improvviso, che sconvolgi i sensi senza preavviso. Non so se è stato un caso, non so quanto è voluto, ma in un istante da te sono caduto. Non so cos'è accaduto, non so cos'è avvenuto, ma ciò che è nato è amore assoluto.